prima edizione. L'informazione del mattino. Una notizia di cronaca che arriva da Ravenna. Un ragazzo di 20 anni è morto e altri due giovani sono rimasti feriti. Uno è grave nello scontro tra una macchina e un treno, avvenuto attorno alle 22 in un passaggio a livello proprio in centro a Ravenna. Non sono ancora chiare le cause dello schianto. L'auto è stata trascinata per diverse centinaia di metri. Il macchinista ha riferito di aver visto il mezzo piombare all'improvviso appunto davanti al convoglio. Questa è la notizia di cronaca della notte. La viabilità adesso, ci ritroviamo subito dopo per un quadro delle prime pagine dei quotidiani. Prima edizione. Sono le 6:19 minuti e 48 secondi. Iniziamo a dare un'occhiata a quello che troviamo sulle prime pagine dei quotidiani oggi in edicole, poi anche un paio di dettagli invece dai quotidiani stranieri. Iniziamo dal Corriere della Sera, che dedica ovviamente l'apertura, come molti fanno questa mattina, alle proteste, agli sgomberi, alle violenze di ieri, quelle con le quali abbiamo aperto il giornale radio delle 6. Il titolo è blocchi e barricate, l'assalto dei Notav, giornalisti aggrediti e minacciati, la polizia sgombera l'autostrada. Così il Corriere della Sera su questo tema. Invece La Stampa ci presenta un'intervista al ministro dell'interno Cancellieri, che dice Tav isolate gli estremisti, intervista appunto al ministro, tocca ai sindaci, nessuna trattativa, dice Cancellieri, e in particolare l'appello, vi leggiamo il titolo delle pagine interne della Cancellieri, è: sindaci, fermatevi, dovete isolare le spinte estremiste, nessun margine di trattativa, è in gioco la credibilità dell'Italia a livello internazionale. Per quanto riguarda la Repubblica, anche qua il titolo è dedicato a questo ed è il titolo di apertura, ed è Valsusa, un giorno di fuoco, battaglia tra Notav e polizia, Cancellieri, dialogo, ma non cediamo. E a firmare i commenti di prima pagina sono su Giovanni Bianconi, sul Corriere della Sera, che chiede nessuna ambiguità e si riferisce in particolare al fatto che una troupe di Corriere TV, la stessa troupe che aveva ripreso le immagini delle quali vi abbiamo fatto sentire l'audio ieri, insomma quelle immagini che sta facendo il Giro d'Italia, che ha fatto il Giro d'Italia, nella quale un manifestante Notav si rivolge ad un carabiniere, il quale resta fermo, immobile, mentre viene insultato, viene chiamato pecorella, viene preso in giro. Ebbene, questa troupe è stata allontanata ieri. Dunque Giovanni Bianconi dice: se è stato un malinteso, allora è il caso di chiedere scusa subito e senza altri distinguo. Così inizia il pezzo. Affida invece il commento sulla vicenda della TAV La Stampa Gian Enrico Rusconi, il quale parla di una vera e propria sfida per il Premier e chiarisce che la conflittualità che investe la Valle di Susa ha perso la natura di un normale conflitto sociale in una democrazia. Il punto è questo: si parla di dichiarazioni di disponibilità, di dialogo da parte dei ministri, il che vorrebbe dire che non si torna indietro, ma che ci sono ancora spazi di trattativa sulle condizioni ambientali e sulle compensazioni, e c'è una significativa parte dei cittadini valsusini che sono disposti a riprendere questa strada, ma lo scetticismo, scrive Rusconi, è d'obbligo. A firmare il commento su questi temi, commenti su questi temi, sono due firme di Repubblica, su Repubblica, Adriano Sofri, che parla degli insulti e del silenzio del carabiniere, Concita De Gregorio, il titolo è La metafora di Brecht. Questo è il quadro per quanto riguarda la TAV. Vediamo di dare un'occhiata agli altri titoli. Iniziando sempre dal Corriere della Sera, sulla riforma del lavoro, trattativa senza risorse, slitta il tavolo sul lavoro, sul fisco si sposterà il peso dalle imposte dirette a quelle indirette, questo era un comunicato di ieri del Presidente del Consiglio Mario Monti, da segnalare il contrasto Eni governo su SNAM, un retroscena firmato da Massimo Mucchetti, e la storia che ci viene raccontata in prima pagina, scelta di taglio basso, una storia che arriva dall'Australia e parla di Astro, il cavallo salvato dall'amore, la storia di Nicole che è rimasta con l'animale intrappolato nelle sabbie mobili e poi sostanzialmente è riuscito a tirarla fuori. Per quanto riguarda la Costa Allegra, il titolo è: i naufraghi preferiscono restare in vacanza, perché sono 200 persone, come sapete, come vi abbiamo raccontato, che hanno accettato l'offerta della Costa. Il vice direttore del Corriere della Sera, Dario Di Vico, firma un pezzo dedicato a quello che ne parleremo poi più avanti naturalmente nei giornali radio, quello che è il Professional Day di oggi, professioni, chi si sente trattato molto male. Ne parla ampiamente del tema professioni, come potrete ben immaginare, il Sole 24 Ore, il cui titolo principale, la cui apertura è dedicata all'asta della Banca Centrale Europea di ieri, un'asta importante, come sapete, ha fornito liquidità alle banche a 3 anni con un interesse all'1%, ebbene 530 miliardi alle banche, spread BTP Bund sotto 340, questo il titolo del Sole 24 Ore. Monti che dice: il differenziale non risalirà, bisogna rafforzare il fondo salva stati. A firmare il commento di prima pagina è Adriana Cerretelli, che parla di ipocrisie europee, di virtù di bilancio e vizio di mercato. Si diceva però che il Sole 24 Ore dedica ampio spazio al tema delle professioni, il titolo è: il dizionario dei professionisti, che cosa cambia con le liberalizzazioni, tariffe, preventivi, tirocini, regole societarie. Una per una, ecco tutte le novità in arrivo. Sono i temi al centro del Professional Day, la giornata delle professioni appunto organizzata a Roma dalle varie associazioni. Tra l'altro, in occasione della manifestazione, Roma sarà collegata con 141 città sparse in tutta Italia. Il Sole 24 Ore ha chiesto ai rappresentanti di tutte le categorie professionali un giudizio sull'impatto che le norme del decreto liberalizzazioni avranno sulle loro attività. Quindi ampio spazio a tutto questo, e le pagelle, e ci sono anche le pagelle appunto degli ordini. Titolo dedicato invece all'altro tema, un altro dei temi delle liberalizzazioni, ossia le assicurazioni auto. Tra l'altro, sulle liberalizzazioni oggi arriva il maxi emendamento del governo. Senza sinistri l'RC auto non sale, il premier dice meno IRPEF, più IVA. Grilli dice ancora torna il fondo taglia tasse. Tra tante aperture sulla TAV, sull'alta velocità, c'è chi fa una scelta diversa, come il Messaggero. Monti: così cambio il fisco, sarà spostato il peso dalle tasse dirette a quelle indirette, questo per il conseguimento, questo, tutto questo è contenuto, queste parole di Monti sono contenute nel atto di indirizzo per il conseguimento degli obiettivi di politica fiscale per gli anni 2012 e 2014. Naturalmente spazio sul Messaggero, naturalmente anche alla guerriglia, la giornata di guerriglia tra gli agenti e i no TAV, mentre invece gli altri quotidiani, come si diceva a proposito di Monti, scelgono invece, come appunto La Stampa e La Repubblica, un altro titolo. Monti che dice: se lavoro bene non durerò, in sostanza, se faccio bene non mi chiederanno il bis, come dire, appunto, provvedimenti impopolari. Da segnalare sempre dal Messaggero la vicenda dei vigili romani, della corruzione tra i vigili romani, come sapete ci sono degli indagati, c'è un'inchiesta in corso. Parla il grande accusatore: io vessato da anni, anche Alemanno va in procura. Il racconto del appunto di questa persona che

cantieri di Baia possono entrare nell'ottica di una delocalizzazione della parte cantieristica di produzione per cercare di fare delle attività in linea con quelle che comunque il progetto di turistico recettivo, fermo restando i livelli occupazionali di ieri. In Rai Italia in Controluce torniamo oggi alle 13.30 su Radio 24. Sono le 6:39 minuti e 10 secondi, tra poco andremo sulle vicende della Costa Allegra perché c'è qualche novità, la nave è arrivata davanti al porto di Mahé, ma tra un attimo, prima di tutto facciamo il punto su le proteste contro la TAV, perché tra l'altro oggi è attesa un'altra giornata probabile di discreta tensione dopo quella di ieri. Allora, Adriana Fracchia, di nuovo buongiorno. Sì, buongiorno a te Simone e agli ascoltatori. La polizia ha sgomberato le barricate costruite lunedì mattina dai Notava a Chianocco sull'autostrada 32 Torino-Bardone, che è stata un'altra notte di scontri con un bilancio provvisorio di 13 feriti tra le forze dell'ordine e un numero imprecisato tra i manifestanti, 5 dei quali sono stati fermati. È stata intanto riaperta la carreggiata verso Torino dopo le operazioni di pulizia e di messa in sicurezza, non ancora quella verso il Fréjus, dove i lavori di ripristino continuano. Non è ancora possibile stabilire quando sarà di nuovo percorribile. Proprio infatti su quel tratto a Chianocco che si è concentrata la protesta dei Notav dalle 11.30 di lunedì fino a ieri sera, quando le forze dell'ordine hanno effettuato lo sgombero dei manifestanti. Uno sgombero per il quale il movimento accusa la questura di Torino di cariche violentissime di caccia all'uomo. E per oggi si prepara un'altra giornata di fuoco in Val di Susa, come dicevi anche tu Simone. I siti del movimento annunciano infatti ancora proteste. Blocchiamo tutto dappertutto alle 18, hanno fatto sapere in Ottava con un passaparola che hanno cominciato a far girare nella notte sui siti. La mobilitazione è stata decisa ieri sera in un'assemblea con centinaia di persone nel salone del centro polivalente di Bussoleno. L'idea, ha spiegato uno dei leader Alberto Perino, è quella di bloccare nuovamente lo svincolo di Chianocco dell'autostrada Torino-Bardonecchia e anche di mettere in atto una serie di azioni a livello nazionale coinvolgendo il maggior numero possibile di città italiane alla stessa ora. Questo il quadro dal fronte della protesta e dal lato delle reazioni istituzionali invece, Adriana? Ecco, nel frattempo appunto a Roma oggi il ministro dell'interno Anna Maria Cancellieri incontrerà il presidente della regione Piemonte Roberto Cotta, il sindaco di Torino Piero Fassino e il presidente della provincia di Torino Antonio Saitta. Ma per quanto riguarda la linea di governo da tenere, ieri sono state queste le dichiarazioni della Cancellieri, sentiamole. Per natura sono sempre pronto ad ascoltare. Dovremmo poter ascoltare perché credo che col dialogo si possano risolvere molti problemi o perlomeno, però su certe cose ci vuole una fermezza senza cedimenti. Linea questa che ha riscosso anche il plauso del ministro dei trasporti francese Mariani, che dice fa bene l'Italia a non piegarsi davanti ad una minoranza, una linea condivisa da gran parte delle forze politiche italiane, dalla Lega al Partito Democratico. E per ora è tutto. Grazie dunque alla nostra Adriana Fracchia. Io chiedo conferma, dovremmo essere in linea con il console italiano onorario d'Italia a Mahé, Claudio Izzi. Console, grazie per essere con noi, perché sappiamo che la nave sta arrivando in questi minuti, la Costa Allegra. Ma l'avete davanti? Sì, sì, buongiorno, buongiorno. Allora, sta arrivando la Costa Allegra, è davanti al porto, no? Sì, sì, posso confermarle. Qui davanti al porto la vediamo già e dovrebbe essere in banchina, presumo più o meno tra un'ora. Ok, dovrebbe arrivare tra un'ora in banchina, quindi devo dire questo trasporto che doveva accelerare nell'ultima fase non è poi accelerato tanto. Abbiamo visto le immagini dalla televisione, in realtà c'è sempre solo il peschereccio francese che la trasporta, o no? No, la nave qui è ben visibile, il problema è che ci vogliono i tempi tecnici per poter arrivare ed essere formeggiata in banchina, questo è quello che intendevo, ma la nave è lì, qui davanti, la vediamo tutti. E è riuscito a parlare con qualche nostro connazionale che si trovi sulla nave, console? No, non ancora, questo avverrà soltanto quando scenderanno, per il momento siamo impegnati. E qui non vogliamo anche disturbare eventualmente chi è a bordo, quindi saranno loro con piacere eventualmente a, parlare con noi nel momento in cui sarà necessario. Ultima domanda che le faccio e la lascio a questa giornata che sarà di lavoro intenso. Le chiedo che lei sappia, sono molti gli italiani che hanno poi deciso di fermarsi là, insomma, in queste, nei prossimi giorni, nelle prossime settimane. Sono esattamente il 50% da quello che mi risulta, quindi la metà rimarranno qui in vacanza e l'altra metà invece partirà questa sera con un volo per l'Italia, Roma, come è già stato varie volte confermato. Benissimo, grazie a Claudio Izzi, console onorario d'Italia a Mahé, per averci concesso il suo tempo in questa giornata piuttosto complessa. Prima edizione. 6:47 minuti, di nuovo una buona giornata da Simone Spezia. Ora parliamo di scuola e di soldi della scuola. Maria Piera Ceci, buongiorno. Buongiorno Simone, questa mattina parliamo di scuole e quattrini, ma soprattutto di quella che appare sempre più come una guerra fra poveri. La questione è questa: come tutti gli anni, le scuole al momento delle iscrizioni chiedono alle famiglie un contributo che generalmente varia dai 50 euro ai 250. Un contributo assolutamente volontario, non obbligatorio, perché la scuola è un diritto gratuito di tutti. Negli anni però, complice forse la crisi economica, le famiglie che non ce la fanno a pagare sono sempre di più e le scuole si sono fatte sempre più aggressive. I soldi dallo Stato infatti non arrivano, i presidi hanno bisogno di questi soldi disperatamente. E allora, come testimoniano le segnalazioni fioccate da tutta Italia alla redazione di scuola.net, ci sono scuole che minacciano di non accettare le iscrizioni di chi non paga, escludono i ragazzi dalle gite, oscurano addirittura i quadri. E allora sentiamo il racconto di una mamma che preferisce non dare il suo nome perché teme ripercussioni sulla figlia. Ho telefonato in segreteria e loro mi hanno, non dico minacciato, ma io devo assolutamente pagare questo contributo. Mi hanno detto che mia figlia non sarebbe stata coperta assicurativamente e così, insomma, io lo dovevo pagare. E poi ho detto, dico, guardate, non posso pagarlo perché per problemi economici. Mi hanno detto di presentare la dichiarazione ISEE e una lettera al preside in cui dicevo che non potevo pagare questa tassa scolastica perché avevo difficoltà economiche. E questo lei si è molto arrabbiata? Sì, c'è stato male parole con la segretaria, con la segreteria della scuola, sì. E dicevo che sono tutelata da un decreto legislativo e che sanno benissimo che loro non mi possono obbligare a pagare, però hanno sempre fatto orecchie da mercante. La scuola di questa signora dunque pretende l'ISE per verificare che davvero non sia in grado di pagare. A Grattamare invece, in provincia di Ascoli Piceno, una scuola ha minacciato con una circolare di abbassare i voti degli studenti che non danno il contributo. La preside Rosanna Moretti. No, non è assolutamente vero e non ci sono mai state penalizzazioni o ripercussioni, e le dico anche di più: se io avessi pensato che queste tre righe solo quest'anno venissero cannibalizzate come circolare e strumentalizzate per altri fini, guardi, mi creda proprio, io nella scuola ci sto quasi 14-15 ore al giorno, abbiamo 150 progetti, è una scuola molto grande, sicuramente se avessi pensato questo, sicuramente il riferimento al DPR 122 del 2009 non lo avrei fatto. Mi scusi, ma strumentalizzata da chi questa circolare? Sia chiara. Strumentalizzata? No, non posso. Cioè, ci sono delle strumentalizzazioni, perché mi creda, sono 2 anni che noi abbiamo questa circolare. Da parte dei genitori? Guardi, questo è il mio punto personale di vista, però non posso andare oltre. Insomma, tanto per capirci, secondo la preside, molti genitori ci marciano, non pagano perché non vogliono, non perché non possono. È un po' questa la questione. Simone, a te torna la linea. Grazie dunque alla nostra Maria Piera Ceci. Io vi devo ricordare, tra l'altro, che di questo parleremo in scuola in controluce domani alle 13:30. Ora i ringraziamenti, naturalmente, come sempre, a Viola Bottoni in redazione, particolarmente preziosa in questa giornata complicata a convincere il console ad intervenire in diretta con noi mentre c'era la nave che stava arrivando in porto. Grazie a Peter Bescapè in regia, come sempre. Grazie a tutti voi per l'ascolto da Simone Spezia. Buona giornata.